Capitolo 2. Con quel coraggioso urlo ancora nelle orecchie, andai di corsa a Londra per la seduta finale del Parlamento, perché avevo deciso che dovevo essere io la prima persona a sfidare il governo, a ritirare la minaccia di riesumare la vecchia legge di Carlo II. Rivolsi un lungo discorso alle donne quel giorno, parlando loro della mia esperienza dei mesi passati e spiegando come tutto quello che avevo visto e sentito girando per il paese non aveva fatto altro che rafforzare la mia convinzione che il voto alle donne fosse una necessità assoluta. «Sento», conclusi, «che per me è venuto il momento di passare all'azione e voglio essere tra coloro che questo pomeriggio porteranno la risoluzione al Parlamento. La mia esperienza nel paese, in particolare a South Leeds, mi ha insegnato cose che i ministri del governo, che non hanno fatto quell'esperienza, non conoscono, e mi ha fatto capire che devo tentare una volta per tutte di vederli e di invitarli a riconsiderare la loro posizione prima che si verifichi qualche orribile disgrazia». In un'atmosfera frenetica ed emozionata, scegliamo le 13 donne richieste, tutte pronte ad essere arrestate e processate in base alla legge tumultuose petizioni di Carlo II. Non mi ero ancora del tutto ripresa dall'aggressione subita nel Mid Devon e la mia caviglia contusa era ancora troppo sensibile per consentirmi di camminare senza avvertire dolore. Vedendomi quasi subito zoppicare malamente, la signora Drummond, con la sua abile gentilezza schietta, chiamò un uomo con un calesse e gli chiese di accompagnarmi alla Camera dei Comuni. Acconsentì all'istante e così montai sul sedile dietro di lui, con le altre donne in fila dietro al calesse. Non ci eravamo allontanati di molto quando la polizia, che ci aveva già circondato con grande spiegamento di forze, mi ordinò di scendere. Ovviamente obbedì e incominciai a camminare, o meglio a claudicare insieme alle mie compagne. Loro avrebbero voluto aiutarmi, ma la polizia insisté che dovevano camminare in fila indiana. La caviglia mi faceva così male che dovetti chiedere il sostegno di due donne che mi presero per un braccio e mi aiutarono ad avanzare. È questo un atto di disobbedienza agli ordini della polizia. Ci spostavamo con difficoltà perché la folla aveva raggiunto dimensioni impressionanti. Tutt'attorno, a perdita d'occhio, c'era una moltitudine di persone entusiaste che si muovevano e ondeggiavano e intorno a noi c'erano interi reggimenti di poliziotti in uniforme a piedi e a cavallo. Si poteva credere che invece di 13 donne, di cui una zoppa, che passeggiavano tranquillamente, la città fosse nelle mani di una banda armata. Ci stavamo avvicinando alla piazza del Parlamento quando due robusti poliziotti mi afferrarono per le braccia e mi dissero che ero in arresto. Le mie due compagne, visto che si rifiutavano di lasciarmi, anche loro erano in arresto e pochi minuti dopo Annie Kenny e 5 altre donne furono arrestate anche loro. Quella notte fummo rilasciate su cauzione e la mattina dopo fummo convocate al tribunale di polizia di Westminster per essere giudicate sotto le leggi di Carlo II. Ma, come poi si scoprì, le autorità imbarazzate dalla nostra solerzia nel collaudare la legge annunciarono di aver cambiato idea e per il momento avrebbero continuato a trattarci come comuni attaccabrighe. Questo fu il mio primo processo e dovetti ascoltare, col sospetto che le mie orecchie stessero tirando qualche scherzo alla mia intelligenza, gli spergiuri più incredibili presentati dall'accusa. Sentì che eravamo partite dalla Caxton Hall, cantando e gridando chiassosamente, che avevamo tenuto un comportamento facinoroso e volgare, togliendo gli elmetti ai poliziotti, assaltando gli uffici a destra e a manca, intanto che marciavamo. La nostra deposizione e quella dei nostri testimoni fu ignorata. Quando cercai di parlare in nostra difesa, fu interrotta bruscamente e ci fu detto in sostanza che io e le altre dovevamo scegliere tra promettere di comportarci bene o andare in carcere nella seconda divisione per 6 settimane. Ho un ricordo vago del lungo e sobbalzante tragitto compiuto da Londra alla prigione di Holloway. Facemmo sosta a Pentonville, la prigione maschile, per scaricare diversi detenuti maschi e ricordo di aver sentito i brividi al pensiero delle nostre donne, molte delle quali erano appena ragazze, portate in carcere sullo stesso furgone di criminali uomini. Arrivate al carcere, procedemmo a tentoni lungo gli scuri corridoi verso l'accettazione, dove fummo allineate contro il muro per una visita medica superficiale. Dopodiché fummo rinchiuse in celle separate, prive di mobilio, eccetto degli sgabelli di legno. Sembrava passata un'eternità, quando la porta della mia cella fu aperta da una carceriera che mi ordinò di seguirla. Entrai in una stanza dove un'altra carceriera sedeva dietro a un tavolo, pronta a fare l'inventario dei miei effetti personali. Obbedendo all'ordine di svestirmi, mi tolsi l'abito e rimasi ad aspettare. «Si tolga tutto», fu l'ordine successivo. «Tutto?» balbettai. Mi pareva impossibile che pretendessero che mi spogliassi. In effetti mi permisero di togliermi il resto degli indumenti al riparo di un bagno. Mi infilai dell'orrenda biancheria intima, vecchia, rattoppata e sporca, delle ruvide calze di lana marrone a strisce rosse e l'odioso uniforme della prigione con su stampato dappertutto il pesante marchio del disonore. Pescai delle calzature da una grossa cesta piena di scarpe vecchie e scompagnate. Mi vennero date delle lenzuola grezze, ma pulite, un asciugamano, una tazza di cioccolata fredda e una spessa fetta di pane nero. E poi fui condotta in cella. La mia prima sensazione, quando la porta venne chiusa a chiave, non fu del tutto sgradevole. Ero sfinita, perché avevo lavorato tanto, forse un po' troppo, per 6 duri mesi. L'entusiasmo e la fatica del giorno precedente e l'indignazione che avevo provato per tutto il processo si erano combinati per portarmi allo stremo delle forze e così fui contenta di potermi gettare sul rigido letto della cella e chiudere gli occhi. Ma il sollievo di trovarmi da sola e di non avere nulla da fare passò in fretta. Il carcere di Holloway è un posto molto vecchio e ha tutti gli svantaggi dei posti vecchi che non hanno mai visto abbastanza sole né preso aria. Ha il puzzo di generazioni di cattiva ventilazione e se la batte per essere l'edificio allo stesso tempo più soffocante e pieno di spifferi in cui sia mai stata. Mi sono subito ammalata per le ventate d'aria, mi faceva male la testa, non sono riuscita a dormire. Me ne sono stata tutta la notte stesa a soffrire il freddo, respirando a fatica, dolorante per la stanchezza e completamente sveglia. Il giorno dopo stavo abbastanza male, ma non ho detto niente. Non è che ci si aspetti di stare comodi in prigione. In realtà la sofferenza mentale è talmente più grande di qualsiasi dolore fisico che quasi lo si dimentica. Il sistema detentivo inglese è medievole e obsoleto. Per certe piccole cose però è migliorato rispetto ai tempi in cui mandavano le suffragette a Holloway. Mi sento di dire che noi, denunciando pubblicamente quelle condizioni, abbiamo indotto questi lievi miglioramenti. Nel 1907 le regole erano eccessivamente crudeli. Una povera detenuta entrando a Holloway piombava in una specie di tomba. Per il primo mese della pena non erano autorizzate lettere né visitatori. Pensateci. Un mese intero. Più di 4 settimane senza spedire né ricevere una sola parola. I cari di una detenuta potevano avere patito indicibili sofferenze, potevano essersi ammalati, potevano essere morti nel frattempo. Si passava un sacco di tempo a pensare a queste cose, poiché la prigioniera veniva tenuta in isolamento dentro una cella stretta e semibuia, 23 ore al giorno. L'isolamento è una punizione troppo orrenda da infliggere a un essere umano, a prescindere dal suo crimine. Criminali incalliti nelle prigioni maschili, si diceva, supplicano piuttosto di essere frustati. Figuratevi come doveva essere per una donna che aveva commesso qualche piccola infrazione, perché gran parte delle donne che viene portata a Holloway sono autrici di piccole trasgressioni. Star seduta, da sola, giorno dopo giorno, il pesante silenzio di una cella, a pensare ai bambini a casa, pensare. Alcune donne diventano pazze. È impossibile credere che una donna possa riemergere da un tale orrore meno criminale di come ci sia entrata. 2 giorni di isolamento, Ogni giornata interrotta da un'ora di silenzioso esercizio in un cortile freddissimo, e fui mandato all'ospedale. Lì pensavo che avrei trovato un po' di conforto. Il letto era migliore, il cibo migliore e piccole comodità come l'acqua calda per lavarsi erano assicurate. La prima notte riuscii a dormire un po'. Intorno a mezzanotte mi svegliai, mi sedetti sul letto e rimasi ad ascoltare. Una donna nella cella di fianco alla mia gemeva con un lungo, singhiozzante respiro mortale. Smise per qualche minuto, poi si lamentò ancora, in maniera orribile. La verità mi si rivelò di colpo, facendomi sentire male, quando capii che una vita stava nascendo proprio lì, in quella spaventosa prigione. Una donna incarcerata dalle leggi degli uomini stava mettendo al mondo un bambino nato in una cella. Non dimenticherò mai quella notte, quello che ho sofferto per i dolori del parto di quella donna, che scoprì in seguito stava solo aspettando il processo per un'accusa che si sarebbe rivelata infondata. I giorni passavano molto lentamente, le notti ancora più lente. Trovandomi in ospedale fui privata della cappella e anche del lavoro. Disperata, alla fine implorai la carceriera di farmi avere almeno un po' di cucito e lei mi diede gentilmente una sua gonna a cui farle l'orlo e poi anche del lavoramaglia. Alle detenute erano concessi soltanto pochi libri, generalmente del tipo catechismo per la scuola. Un giorno chiesi al cappellano se in biblioteca non ci fossero magari dei libri in francese o in tedesco e lui mi portò un vero tesoro. Voyage autour de mon jardin di Alphonse Karr. Per qualche giorno fui abbastanza felice. Leggevo il libro e lo traducevo su un'assurda lavagnetta che ci davano al posto di carta matita. Quella lavagnetta in fondo mi fu di grande conforto. La usavo per un sacco di cose. Ci tenevo un calendario, ci scrivevo sopra tutte le poesie francesi che riuscivo a ricordare. Annotavo persino vecchie corali di scuola e vecchi esercizi d'inglese. Mi aiutò in maniera eccellente a far passare le infinite ore che mancavano al mio rilascio. Dimenticai persino il freddo, che era la cosa più dura da sopportare, visto che il cappotto di pelliccia era stato messo via, etichettato col mio nome. Li pregai di ridarmi il cappotto, ma non volevano che lo tenessi. E infine venne il giorno in cui mi restituirono tutte le mie cose e mi lasciarono libera. All'uscita il governatore mi chiese se avevo qualcosa di cui lamentarmi. Non di lei, né delle carceriere, risposi, solo della prigione e di tutte le prigioni. Le raderemo al suolo. Tornata nella mia confortevole casa, circondata dall'affetto degli amici, avrei voluto riposare tranquillamente per qualche giorno, ma quella sera ci aspettava una grande assemblea alla Albert Hall per sancire la chiusura di una settimana di sacrifici per raccogliere soldi in vista della nostra campagna annuale. Le donne avevano venduto giornali, fiori e giocattoli agli incroci e avevano cantato in coro per le strade in nome della causa. Molte donne, famose nel mondo dell'arte e delle lettere, facevano queste cose. Pensavo che sarei riuscita a dare il mio piccolo contributo se solo avessi partecipato all'assemblea, così ci andai. Il mio rilascio era previsto per il mattino seguente e quindi nessuno si aspettava di vedermi apparire alla riunione. La mia poltrona da presidente era decorata con un grosso cartello con su scritto «Sedia della signora Pankhurst». Dopo che tutte le altre si furono accomodate, relatrice e centinaia di ex detenute, salì con calma sul palco, tolsi il cartello dalla sedia e mi sedetti. Un grande urlo si levò dalle donne, che si alzarono dalle sedie e distesero le braccia verso di me. Mi ci volle un po', prima di vederle per quante lacrime stavo versando, o prima di parlare con loro per l'emozione che mi scuoteva tutta. Il mattino seguente, io e le altre prigioniere rilasciate partimmo alla volta di Peckham, una circoscrizione di Londra, dove le associate della WSPU stavano vigorosamente disturbando un'elezione straordinaria. Sfilammo per le strade a freni sciolti, indossando le divise del carcere o una loro esatta riproduzione. Naturalmente attirammo molta simpatia e attenzione e alle nostre assemblee nella zona di Peckham Rye, come la conoscevano tutti, si radunarono enormi folle. Quando arrivò il giorno delle votazioni, le nostre donne si appostarono nei pressi delle cabine elettorali e molti uomini che entravano per votare ci dissero che per la prima volta stavano votando per le donne, ovvero contro il governo. Quella notte, nella diffusa eccitazione, fu reso noto che la maggioranza liberale di 2.339 voti all'ultima elezione generale si era trasformata in una maggioranza di conservatori di 2.494. Fioccarono le lettere ai giornali in cui si dichiarava che la perdita di questo importante seggio liberale era quasi interamente dovuta all'intervento delle suffragette, e molti liberali di spicco invitarono i leader del partito a cominciare a fare qualcosa per le donne prima delle prossime elezioni generali. I leader liberali, con la consueta perspicacia dei politici, non risposero affatto, anzi, guardarono con soddisfazione l'ascesa ai poteri alti dell'arcinemico dei suffragisti, il signor Asquith. Asquith divenne primo ministro nei giorni di Pasqua del 1908, a seguito delle dimissioni per ragioni di salute di Sir Henry Campbell Bannerman. Asquith fu scelto non per qualche particolare merito di statista e neanche per la grande popolarità personale, perché non ne aveva proprio, ma semplicemente perché in quel momento non ce n'era un altro disponibile. Era noto come avvocato bravo, astuto, in un certo senso spregiudicato. Aveva ricoperto diverse alte cariche per la soddisfazione del suo partito e sotto Sir Harry Campbell Bannerman era stato cancelliere dello scacchiere, una posizione che viene generalmente considerata un trampolino per la carica di primo ministro. La cosa migliore che la stampa liberale riuscì a dire del nuovo premier era che fosse un uomo forte. Di solito in politica questo termine viene usato per descrivere un uomo ostinato. E questo già lo sapevamo del signor Asquith. Era un esplicito oppositore del suffragio femminile e c'era sufficientemente chiaro che nessun metodo di educazione o persuasione poteva avere successo dove operava lui. Pertanto, la necessità di un'azione da parte nostra era più forte che mai. L'occasione si presentò subito per via dei cambiamenti che stavano interessando il nuovo governo. Secondo la legge inglese, tutti i nuovi arrivati del Consiglio dei Ministri sono obbligati a dimettersi dal Parlamento e a candidarsi nuovamente nei loro collegi per la rielezione. Oltre a questi posti vacanti, ce n'erano altri dovuti ai decessi e all'elevazione a titolo di pari. Ciò rendeva necessaria una certa quantità di elezioni straordinarie e la WSPU scese ancora una volta in campo contro i candidati liberali. Non entrerò nei dettagli di queste elezioni straordinarie più di quanto occorra dimostrare l'effetto della nostra pressione sul governo e il conseguente effetto sul nostro movimento, che fu quello di rafforzare sempre più la nostra militanza. Lascerò all'onesto giudizio dei lettori il compito di mettere al posto giusto la responsabilità di quelle prime finestre rotte. Scegliemmo come nostro primo candidato da battere Winston Churchill, che era in procinto di chiedere all'elettorato di North West Manchester di sancire la sua nomina a presidente della Camera di Commercio. Mia figlia Christabel si fece carico di questa tornata elettorale e il lavoro suo e delle sue compagne fu talmente efficace che Churchill perse il seggio per 420 voti. Tutti i giornali riconobbero che erano state le suffragette a sconfiggere Churchill e un quotidiano liberale, il londinese Daily News, invitò il partito a porre fine a una condizione intollerabile, dando ascolto alle richieste delle donne per il diritto di voto. Un altro seggio fu immediatamente messo a disposizione del signor Churchill, quello di Dundee, al tempo fortemente nel senso della presenza del partito liberale e quindi sicuro. Ciò nonostante, decidemmo di schierarci contro Churchill anche lì, magari per sconfiggerlo e in ogni caso per affossare la maggioranza liberale. Mi occupai personalmente della campagna, organizzando un'assemblea molto grande alla Kinnaird Hall la sera prima dell'arrivo di Churchill. Benché fosse assolutamente certo della sua elezione in questo collegio scozzese, il signor Churchill temeva l'effetto della nostra presenza sulle donne liberali. Il secondo incontro che tenne a Dundee fu dedicato unicamente alle donne e, anziché chiedere sostegno per le varie misure che comparivano nel programma governativo, secondo l'abituale metodo dei politici, parlò della certezza di assicurare in breve tempo il voto parlamentare alle donne. «Nessuno», dichiarò, «può restare cieco di fronte al fatto che alle prossime elezioni generali il suffragio femminile sarà una questione reale, concreta, e il prossimo Parlamento, io credo, vedrà soddisfatte le rivendicazioni delle donne. Non escludo che la possibilità del suffragio venga affrontata già in questo Parlamento». Churchill ribadì seriamente di voler essere considerato un vero amico della causa delle donne. ma quando fu pressato affinché promettesse un'azione del suo governo, si premurò di chiarire che non poteva parlare a nome dei suoi colleghi. Questa promessa strumentale, o piuttosto la profezia del voto alle donne a tempo indefinito, conquistò un gran numero di donne liberali che iniziarono subito a lavorare devotamente per l'elezione di Churchill. Dundee ha una vasta popolazione di persone estremamente povere, operai negli stabilimenti di Utah e nelle fabbriche di marmellata. Alcune concessioni in materia di tassa sullo zucchero tempestivamente fatte e l'annuncio che il nuovo governo intendeva istituire le pensioni di anzianità generarono tra i liberali un'immensa ondata di entusiasmo che portò Churchill a vincere a dispetto del nostro lavoro, che fu comunque incessante. Tenemmo qualcosa come 200 assemblee e alla vigilia del voto 5 grandi dimostrazioni, 4 delle quali all'aperto e una dentro uno strapieno salone per l'addestramento militare. Il giorno delle elezioni, il 9 maggio, fu davvero emozionante. Per ogni suffragetta alle cabine elettorali c'era una mezza dozzina di uomini e donne liberali che esibivano cartelli con scritte come «Votate per Churchill! Lasciate perdere le donne!» e «Dentro Churchill e fuori le donne!» Eppure, con tutto quello schieramento, Churchill raccolse 2.200 voti in meno di quanti ne aveva ottenuti il suo predecessore liberale alle elezioni generali. Nelle 7 elezioni straordinarie, seguita la nomina a primo ministro di Asquith, riuscimmo ad abbattere il consenso liberale di 6.663 voti. Poi successe una cosa che servì a verificare i nostri progressi. Asquith ricevette una delegazione di parlamentari liberali che lo incoraggiò a riconoscere il progetto di legge di Stenger, che aveva superato la seconda lettura a larga maggioranza, e a trasformarlo in legge. Asquith replicò che per quanto lo riguardava non aveva alcun desiderio di vedere emancipate le donne e che non sarebbe stato possibile al governo concedere la richiesta agevolazione al progetto di legge di Stenger. Aggiunse di essere pienamente consapevole dei tanti difetti del sistema elettorale e che il governo intendeva, salvo incidenti, introdurre un progetto di legge di riforma prima della fine di questa legislatura. Il suffragio femminile non vi avrebbe trovato posto, ma se ne parlava così tanto che si sarebbe potuto inserire un emendamento sul suffragio femminile se qualche parlamentare lo avesse proposto. In quel caso, disse Asquith, non avrebbe considerato compito del governo opporsi all'emendamento se fosse stato approvato da una maggioranza alla Camera dei Comuni, purché l'emendamento fosse di natura democratica e avesse il sostegno, il pieno e indubbio sostegno, delle donne del paese, così come dell'attuale elettorato. Nessuno poteva illudersi che un'affermazione tanto evasiva equivalesse a dare al suffragio femminile reali possibilità di successo sotto il governo di Asquith. Che venisse presa sul serio da molti non è che un'altra dimostrazione della credulità della gente accecata dal partito. La stampa liberale elogiò la promessa di Asquith e invocò una tregua, allo scopo di lasciare il governo libero di agire. Disse lo Star in un editoriale simile a molti altri: il significato della promessa del signor Asquith è evidente. Il suffragio femminile passerà alla Camera dei Comuni prima che l'attuale governo indica nuove elezioni. Quanto alle associazioni di donne liberali, erano euforiche per la troppa gioia. A una conferenza organizzata al fine di approvare delle mozioni di ringraziamento, Lady Carlisle disse: «Questo è un glorioso giorno di tripudio. Il nostro grande primo ministro, onore a lui, ci ha aperto la strada per accedere a quel patrimonio da cui siamo state troppo a lungo escluse». Alle 2 successive elezioni straordinarie, le ultime della serie, furono esibiti degli enormi poster: «Grande progetto di legge di riforma del Premier, voto alle donne». Tentavo di far capire agli elettori che la promessa era chiaramente falsa, che la pretestuosa condizione che l'emendamento fosse democratico non lasciava dubbi che il governo avrebbe rigettato qualsiasi emendamento concreto che fosse stato proposto. Le nostre parole arrivarono a orecchie sorde e la maggioranza liberale prese il volo. Appena una settimana più tardi, Asquith fu interrogato alla Camera dei Comuni da un parlamentare antisuffragista leggermente allarmato. Il parlamentare domandò ad Asquith se si ritenesse impegnato a presentare un progetto di legge di riforma entro quella legislatura, se avesse intenzione di consentire a un tale progetto di legge di portare un emendamento sul suffragio femminile, se mai fosse stato avanzato e se, in quel caso, l'emendamento sul suffragio sarebbe diventato parte del programma di governo. Evasivo come sempre, il primo ministro, dopo qualche discussione di rito, replicò: «Il mio onorevole amico mi ha posto una domanda che riguarda un futuro remoto e del tutto ipotetico». La nostra interpretazione della promessa di Asquith fu pertanto giustificata dalle sue stesse labbra. Eppure le donne liberali restavano ancora aggrappate alla speranza di un'azione del governo e la stampa liberale fingeva di crederci. Quanto alla WSPU, ci preparammo a fare un lavoro ancora più intenso. Dovevamo studiare una nuova linea, dal momento che era ormai chiaro che il governo poteva, almeno per ora, neutralizzare il nostro intervento alle elezioni straordinarie rilasciando false promesse. In accordo con la nostra politica di non oltrepassare mai i limiti che il governo ci imponeva, optammo per un'azione assolutamente pacifica. Il giorno in cui il progetto di legge di Stenger raggiunse la seconda lettura alla Camera e diversi giorni dopo essere andata a Holloway per la prima volta, Herbert Gladstone, il segretario di Stato, fece un discorso che suscitò grande interesse tra le suffragette. Si dichiarò un convinto suffragista e rivelò la sua intenzione di votare a favore del progetto di legge. Tuttavia, era sicuro che non sarebbe passato, per via delle divisioni nel Consiglio dei Ministri e del fatto che non c'era un solo partito politico unito con o contro di esso. Il suffragio femminile, disse Gladstone, per arrivare alla vittoria deve attraversare tutte le fasi indispensabili per la maturazione di ogni grande riforma. Prima discussione accademica, poi azione efficace, questa era la storia del suffragio maschile. Deve essere lo stesso anche per il suffragio femminile. Gli uomini, affermò Gladstone, hanno imparato questa lezione e conoscono la necessità di dimostrare quanto sia grande il loro movimento e di consolidare quella force majeure che sprona e fornisce gli strumenti a un governo per operare in modo efficiente. Questo è il compito che hanno i sostenitori di un grande movimento. Riesaminando le crisi politiche degli anni 30, 60 e 80, si constaterà che la gente non si riuniva in piccoli gruppi e non si faceva bastare entusiastiche assemblee in grandi sale. Si radunavano a decine di migliaia per tutto il paese. Gladstone aggiunse: «Ovviamente non ci si aspetta che le donne possano radunarsi in masse tanto grandi, ma la forza è delle masse, e attraverso questa forza un governo può essere influenzato a intraprendere un'azione efficace più di quanto lo sia un governo nelle condizioni attuali». La WSPU decise di raccogliere la sfida. Se radunarsi in grandi masse era tutto ciò che serviva per convincere il governo che il suffragio femminile aveva superato la fase della discussione accademica e pretendeva un'azione politica, pensavamo di poterci impegnare per persuadere i più scettici membri del governo. Sapevamo di essere in grado di organizzare una dimostrazione che potesse competere con le grandi manifestazioni per il diritto di voto degli uomini degli anni 30, 60 e 80. Il più grande numero di persone mai radunato a Hyde Park si diceva che fosse attorno a 72.000. Decidemmo di organizzare una manifestazione a Hyde Park con almeno 250.000 persone. La data di questa dimostrazione venne fissata a domenica 21 giugno 1908 e per molti mesi lavorammo per renderla una giornata epocale nella storia del movimento. Il nostro esempio fu seguito dalle suffragiste non militanti che organizzarono un bel corteo per conto loro una settimana prima della nostra manifestazione. Si stimò che in quel corteo sfilarono 13.000 donne. Per la nostra manifestazione spendemmo solo di pubblicità oltre 1.000 sterline. Coprimmo gli spazi pubblicitari di Londra e di tutte le principali città della provincia con grandi cartelloni recanti il ritratto delle donne che avrebbero presieduto i 20 palchi su cui ci sarebbero tenuti discorsi. Vi trovavano posto anche una mappa di Londra con evidenziati i percorsi che avrebbero fatto i 7 cortei e una pianta del punto del raduno a Hyde Park. Londra, ovviamente, fu preparata con grande scrupolo. Per settimane un piccolo esercito di donne fu impegnato a scrivere l'annuncio col gesso sui marciapiedi, a distribuire opuscoli, a informare la gente casa per casa, a promuovere la manifestazione con cartelli e sandwich pubblicitari in mezzo alla strada. Invitammo tutte a partecipare, comprese le due camere del Parlamento. Pochi giorni prima della manifestazione, la signora Drummond e altre donne noleggiarono e abbellirono una barca e navigarono sul Tamigi verso il Parlamento. Arrivando sul posto all'ora in cui i parlamentari si intrattengono con le amiche per un tè sulla terrazza. Tutti lasciarono il tavolo e si accalcarono verso la riva del fiume mentre la barca si fermava e la signora Drummond, con voce forte e chiara, trasmise al governo e ai membri del Parlamento l'invito a unirsi alla manifestazione delle donne a Hyde Park. «Venite al parco domenica! Avrete la protezione della polizia e non ci saranno arresti, ve lo promettiamo!» Qualcuno, spaventato, chiese l'intervento di una lancia della polizia, ma quando arrivò la barca delle donne si era già dileguata. Che giornata fu, quella domenica 21 giugno! Limpida, radiosa, piena di luce dorata. Mentre avanzavo alla guida, condivisa insieme alla venerabile signora Wollstoneholm Elmy, del primo dei sette cortei, mi pareva che tutta Londra fosse uscita ad assistere alla nostra manifestazione e buona parte di Londra seguiva in fila i cortei. Quando salì sul mio palco a Hyde Park e soppesai la potente moltitudine che era lì in attesa e l'interminabile folla che stava ancora accedendo al parco da ogni direzione, fu invasa da un senso di meraviglia, non privo di una certa soggezione. Non avrei mai immaginato che così tanta gente si potesse radunare per condividere una dimostrazione politica. Era uno spettacolo bello e allegro, oltre che maestoso, perché le gonne bianche e i cappelli fiorati delle donne, stagliati sullo sfondo di alberi antichi, davano al parco l'aspetto di un ampio giardino in piena fioritura. Squillarono le trombe e le relatrici di ciascuno dei 20 palchi attaccarono i loro discorsi, che non potevano essere uditi da più di un terzo o da metà del vasto pubblico, eppure restarono fino alla fine. Alle 5 le trombe squillarono di nuovo, i discorsi cessarono e la risoluzione con cui si chiedeva al governo di presentare un progetto di legge ufficiale sul suffragio femminile, senza ulteriori ritardi, fu consegnata ad ogni politico, per lo più senza voti contrari. Poi, con il coro «Vota alle donne», ripetuto 3 volte dalla folla, la grande adunata si sciolse. Il Times di Londra scrisse il giorno dopo: «Gli organizzatori avevano previsto 250.000 persone. L'aspettativa è stata sicuramente confermata e probabilmente è stata raddoppiata e non sarebbe facile contraddire chi affermasse che si era triplicata. Come per la quantità e la distanza delle stelle, i fatti sono andati al di là della soglia della percezione». Il Daily Express disse: «È probabile che mai prima d'ora così tante persone si fossero raccolte tutte insieme in uno spazio aperto in Inghilterra. Gli uomini che avevano visto il grande raduno di Gladstone anni fa hanno detto che in confronto alla marea di ieri, quello era niente». Sentivamo di aver vinto la sfida insita nella dichiarazione di Gladstone, che la forza è delle masse e che solo attraverso questa forza si possono influenzare i governi. Perciò fu con grande speranza che inviamo una copia della risoluzione al primo ministro, chiedendogli che tipo di risposta avrebbe dato a quell'impareggiabile adunata di uomini e donne. Asquith replicò formalmente che non aveva altro da aggiungere alla sua dichiarazione precedente, che il governo intendeva, a scadenza imprecisata, inserire un progetto di legge di riforma generale che poteva essere emendato per includere il suffragio femminile. La nostra meravigliosa manifestazione, a quanto pareva, non l'aveva impressionato più di tanto.